Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Una notte, verso l'una, Fabrizio se ne stava disteso sul davanzale della finestra, sporgendo la testa dall'apertura dello schermo, a guardare le stelle, l'orizzonte immenso. Stava guardando dalla parte del Basso Po, verso Ferrara, quando vide per caso una luce minuscola, vivissima. Sembrava venisse dall'alto di una torre. Non si deve poterla vedere dalla pianura, quella luce, pensò. Dal basso deve essere nascosta dai muri della torre. Sarà qualche segnale. E di colpo si accorse che quella luce si accendeva e si spegneva a intervalli brevissimi. Sarà qualche ragazza che parla al suo bello da un paese all'altro. La luce si accese e si spense 9 volte. Questa è una I, pensò, perché la I è la 9ª lettera dell'alfabeto. Poi, dopo una pausa, la luce si accese e si spense 14 volte. Questa è una N. Una pausa e la luce si accese di nuovo, poi si spense 1 volta sola. Questa è una A, è una parola. Ina. La luce riprese a accendersi e a spegnersi. Fabrizio adesso era emozionatissimo, felice. Mettendo insieme le varie lettere, ne erano uscite queste parole. Ina pensa a te. Non poteva essere che lei, Gina. Prese la lampada, rispose con lo stesso sistema. Fabrizio ti ama. Continuarono a comunicare fino all'alba. Quella era la 173esima notte che lui passava in prigione e venne a sapere che da 4 mesi facevano quei segnali tutte le notti. Ma c'era il pericolo che qualcuno li intercettasse e così incominciarono subito a stabilire una serie di abbreviazioni convenzionali. Era un vecchio codice, si chiamava l'alfabeto della monaca. Poi si diedero appuntamento per la notte dopo, all'1, e la notte dopo la duchessa andò alla torre, che era 1/4 di lega dalla città. Gli occhi le si riempirono di lacrime. Aveva sofferto tanto per lui, e ora lui era lì e le faceva quei segnali. Volle prendere lei stessa la lampada, gli disse: «Ti amo, coraggio, sta bene, avrai bisogno di molta forza nelle braccia, tienti in esercizio». Gli fece dire che presto sarebbe stato libero grazie alla bontà del principe, e queste parole non erano in codice. Tra poco l'avrebbero liberato. Avevano continuato a ripeterglielo. Fabrizio era tutto triste. Il giorno dopo Clelia se ne accorse e fece l'imprudenza di chiedergliene la ragione. «È che dovrò dare alla duchessa un grosso dispiacere». «Ma che cosa può chiedervi che voi dobbiate dirle di no?» gli chiese lei ansiosamente. «Vuole che io esca di qui», le rispose Fabrizio, «e a questo io non acconsentirò mai». Clelia non poté rispondere. Lo guardò, si mise a piangere. Se in quel momento Fabrizio avesse potuto parlarle da vicino, forse sarebbe riuscito a farle confessare che lo amava. Avrebbe potuto esserne sicuro finalmente, dopo tanti dubbi scoraggianti. Il giorno dopo ricevette 1 lunghissima lettera di Clelia. «Amico mio, bisogna che sappiate la verità. Da quando siete qui, molte volte in città si è pensato che ormai per voi fosse arrivata la fine. È vero che siete stato condannato soltanto a 10 anni di fortezza, ma è anche evidente, purtroppo, che voi siete odiato e perseguitato da gente molto importante. 1000 volte ho avuto paura che finissero per avvelenarvi. È dunque indispensabile che facciate di tutto per uscire di qui. Vi renderete conto che per voi io sto venendo meno ai miei più sacrosanti doveri. Giudicate dunque dell'imminenza del pericolo che vi minaccia dalla gravità delle cose che io mi azzardo a dirvi e che in bocca mia sono così fuori posto. Dato che è indispensabile, dato che non c'è altra via di scampo, dovete fuggire. Ogni istante che passate in questa prigione può mettere in pericolo la vostra vita. C'è un partito a corte che non si è mai fermato davanti a un delitto pur di arrivare dove voleva. Pensateci. Fino a ora, lo sapete, tutti i piani di questo partito sono stati sventati dalla grande abilità del conte Mosca, ma ora sanno che c'è un mezzo sicuro per costringere Mosca a lasciare la città, portare la duchessa alla disperazione. e non sanno forse fin troppo bene che è con la morte di un certo prigioniero che potranno riuscirci? La risposta non può essere che una, e quindi potete rendervi conto della vostra situazione. Dite di essermi amico, ma prima di tutto dovete capire che questo fra noi non potrà mai diventare un sentimento stabile, durevole, perché vi si oppongono ostacoli insormontabili. Ci saremo incontrati da giovani, ci saremo tesi la mano in una penosa circostanza, ecco, e il destino mi avrà fatto venire in questo triste luogo perché io potessi alleviare le vostre sofferenze. Fuggite, ve lo ordino. Era una lettera molto lunga. Certe frasi, come quel ve lo ordino, fecero passare deliziosi momenti di speranza all'amore di Fabrizio. Il linguaggio era estremamente cauto, d'accordo, ma in fondo i sentimenti erano piuttosto affettuosi. Ma subito dopo Fabrizio si trovava a dover scontare la sua assoluta ignoranza in quel genere di schermaglie. E in quella lettera ci vedeva soltanto un po' di amicizia o addirittura un comunissimo senso di compassione. Finì per vedere in quella lettera soltanto un'occasione per chiedere a Clelia un colloquio, poterle parlare. Non pensava ad altro. Le aveva rivolto la parola soltanto una volta e per un attimo, quando era arrivato alla cittadella. Erano già passati più di 200 giorni da allora. C'era un modo molto facile per poterla incontrare. Grazie a Don Cesare, Fabrizio poteva prendersi quotidianamente una mezz'ora d'aria sulla terrazza della Torre Farnese. Ma mentre il giovedì ci andava di giorno, gli altri giorni della settimana, per evitare di essere visto da tutta Parma e per non far avere noia al governatore, ci andava quando era buio. Per salire alla terrazza della Torre Farnese c'era solo la scala del piccolo campanile della cappella. Quella cappella decorata tanto lugubremente in marmo bianco e nero. Grillo, il secondino, accompagnava Fabrizio nella cappella, poi gli apriva la porticina del campanile. Avrebbe anche dovuto salire sulla terrazza con il prigioniero, ma dato che la sera incominciava a far fresco, lo lasciava salire da solo, chiudeva a chiave la porticina del campanile e ritornava nella sua stanza al calduccio. Era semplicissimo. Bastava che una sera Clelia venisse in cappella, scortata dalla sua cameriera. La lunga lettera che Fabrizio scrisse a Clelia era tutta studiata per convincerla a accettare quell'incontro. Il risultato di questa richiesta di appuntamento fu che Clelia non si fece vedere per 5 giorni. Per 5 giorni andò nella stanza degli uccelli soltanto quando era sicura che Fabrizio non poteva aprire lo sportello nello schermo di legno. Fabrizio era disperato. Era con vero e proprio disgusto che tutte le notti rispondeva a quei segnali luminosi. Una mattina la duchessa pensò che fosse impazzito. Sulla copia dei segnali ricevuti durante la notte, che Ludovico come sempre le aveva portato, c'erano queste parole: «Non voglio scappare, voglio morire qui». Furono 5 giorni terribili per Fabrizio, ma Clelia soffriva ancora più di lui. Generosa come era, Aveva dovuto lottare con se stessa. Aveva pensato: devo andare in convento, lontano da qui. Glielo farò dire da Grillo, da tutti i secondini, e quando lui saprà che sono andata via, cercherà di scappare. Ma andare in convento voleva dire rinunciare per sempre a vedere Fabrizio. Clelia non ebbe abbastanza coraggio e fece il grosso sbaglio di non andare in convento, cosa che le avrebbe anche dato la possibilità di rompere nel modo più semplice con il marchese Crescenzi. Ma una volta fatto questo sbaglio, come poteva resistere a quel giovanotto così simpatico, così sincero, così affettuoso, che si esponeva a tremendi pericoli solo per poterla vedere da una finestra all'altra? Dopo 5 terribili giorni passati a lottare, a disprezzarsi anche, Clelia si decise a rispondere alla lettera in cui Fabrizio le chiedeva di venire nella cappella. Certo, disse di no, e piuttosto duramente, ma adesso non c'era più pace per lei. Continuava a immaginare che Fabrizio fosse morto avvelenato, e allora doveva correre nella stanza degli uccelli. Ci andava 7-8 volte al giorno. Doveva assolutamente vedere con i suoi occhi che Fabrizio era vivo. Se è ancora in prigione, pensava, se è qui, esposto a tutti gli orrori che forse quelli del partito della Raversi stanno tramando contro di lui per rovesciare Mosca, è solo per colpa mia, perché sono stata così vile da non andare in convento. Se avesse saputo che io non c'ero più, che non sarei più tornata, lui non avrebbe avuto nessuna ragione per rifiutarsi di fuggire. Adesso Grillo rispondeva a tutte le domande di Fabrizio, anche se aveva sempre cercato di comportarsi con molta prudenza e di non tradire la signorina Clelia, perché secondo lui la signorina, pur essendo sul punto di sposare il marchese Crescenzi, l'uomo più ricco di tutto lo Stato, doveva star facendo l'amore, per quel tanto che lo permettevano le mura della prigione, con quel simpatico monsignor Del Dongo. Ma questa volta si lasciò scappare questa frase: a quanto pare si sposeranno presto. Fabrizio ne fu sconvolto. Quella notte rispose ai segnali luminosi solo per dire che stava male. Il giorno dopo Clelia venne nella stanza degli uccelli prima del solito, alle 10. Fabrizio, con un tono cerimoniosissimo del tutto insolito tra loro, le chiese perché mai lei non gli avesse detto semplicemente che era innamorata del marchese Crescenzi e che stava per sposarlo. «Perché non è vero niente?» rispose Clelia irritata. Ma bisogna dire che il resto del suo discorso fu piuttosto ambiguo. Fabrizio glielo fece notare e non perse l'occasione per chiederle di nuovo un appuntamento. Clelia, a veder messa in dubbio la sua buona fede, accettò quasi subito, pur facendogli osservare che questo per lei voleva dire essere disonorata per sempre di fronte a Grillo. Verso le prime ore della notte, Clelia, accompagnata dalla cameriera, entrò nella cappella di marmo nero. Venne avanti, si fermò vicino alla lampada Poi Grillo e la cameriera si tirarono indietro verso la porta. Clelia stava tremando. Si era preparato un bel discorso. Voleva evitare di lasciarsi andare a una confessione compromettente. Ma la passione ha una sua logica irresistibile. L'impulso che spinge un innamorato a voler sapere la verità non gli consente cautele, e d'altra parte un innamorato non ha alcuna paura di offendere la persona amata, tanto è assoluta la devozione che prova. In principio Fabrizio restò come abbagliato dalla sua bellezza. Da 8 mesi era abituato a vedere da vicino soltanto i carcerieri, ma poi gli bastò sentire il nome del marchese Crescenzi per infuriarsi, e la sua collera aumentò quando si accorse che lei si limitava a rispondergli in modo evasivo. Fabrizio era sempre più in collera, e alla fine Clelia si rese conto che così non avrebbe mai potuto dissipare i suoi sospetti, li avrebbe solo rinfocolati. Era troppo, non poteva tollerarlo. «Sarete contento!» gli disse con strana violenza, le lacrime agli occhi. «Sarete contento adesso che mi avete fatto passar sopra tutti i doveri che ho verso me stessa. Fino al 3 di agosto dell'anno scorso, quando un uomo cercava di piacermi, io provavo soltanto un senso di repulsione. L'ho sempre disprezzato, il modo di fare di chi vive a corte, e probabilmente esageravo. Ho sempre detestato tutto quello che piaceva in quell'ambiente. Poi, il 3 di agosto, hanno portato un prigioniero alla cittadella e io ho incominciato a dirmi che aveva molte qualità e ho incominciato a soffrire di gelosia, anche se non me ne rendevo conto. Ma io la conoscevo benissimo, una certa signora molto bella e affascinante, e quando ci pensavo era come una pugnalata, perché credevo che quel prigioniero le volesse molto bene, e del resto lo credo ancora un po'. Poi è venuto il marchese Crescenzi, aveva chiesto la mia mano e si è messo a perseguitarmi con la sua corte. È molto ricco e noi non abbiamo niente, ma io non volevo, ero proprio decisa. Poi mio padre mi ha detto che mi avrebbe mandato in convento, e allora ho capito che se andavo via non avrei più potuto aiutarlo, quel prigioniero che mi ero presa a cuore. Oh, ero stata molto brava, molto prudente, perché fino a quel momento lui non ne sapeva niente del pericolo che stava correndo. Non volevo tradire né mio padre né il mio segreto. Ma c'era quell'altra, quella che lo protegge, quella donna tanto attiva e intelligente, con la sua terribile volontà. Credo che gli abbia proposto un piano per fuggire, ma lui lo ha rifiutato e ha saputo convincermi che se lo aveva fatto era solo per non dover andare lontano da me. Sono stati 5 giorni terribili e ho fatto uno sbaglio, un grosso sbaglio. Avrei dovuto andarci subito in convento. Sarebbe stato un modo molto semplice per rompere con il marchese Crescenzi. E invece no, non ne ho avuto il coraggio e mi sono perduta, perché lui, l'uomo a cui mi sono legata, è un uomo volubile. Lo so benissimo come si è comportato a Napoli e che ragione ho di credere che sia cambiato. Era in prigione e allora ha fatto la corte all'unica donna che c'era. Si annoiava e questo serviva a distrarlo. E siccome per parlare a quella donna c'erano certe difficoltà, quella specie di scherzo è finito per sembrargli una vera passione. È molto coraggioso quel prigioniero, lo sanno tutti. E così lui pensa di dimostrare che il suo amore non è soltanto un'infatuazione, correndo dei pericoli tremendi per poter continuare a vedere la persona che crede di amare. Ma appena sarà in qualche grande città, in mezzo alla gente elegante, tornerà a essere quello che è sempre stato, un uomo di mondo pronto a divertirsi e a far la corte alle donne, e la sua povera compagna di prigione finirà chiusa in un convento, dimenticata, a tormentarsi, a pentirsi di avergli parlato, di avergli detto tutto. Naturalmente, questa storica dichiarazione, di cui abbiamo riportato soltanto i punti essenziali, era stata interrotta di continuo da Fabrizio. Innamorato com'era, lui era convinto nel modo più assoluto di non avere mai amato prima di aver incontrato Clelia e di dover vivere d'ora in poi soltanto per lei. Stava dicendole un'infinità di cose meravigliose quando la cameriera venne a dire che erano suonate le 11:30 e che il generale poteva tornare da un momento all'altro. Fu triste separarsi. Tre giorni dopo i segnali luminosi si interruppero molto prima del solito, verso mezzanotte. E proprio in quel momento una grossa palla di piombo cadde dall'alto della finestra, rompendo i fogli di carta che sostituivano i vetri e sfiorando la testa di Fabrizio. Ma era più leggera di quanto sembrasse, e Fabrizio intuì che doveva contenere qualcosa. Riuscì facilmente ad aprirla e ci trovò dentro una lettera della duchessa. Servendosi come intermediario dell'arcivescovo, che si stava lavorando con molta abilità, lei era riuscita a corrompere un soldato della guarnigione della cittadella. Era un tipo molto abile con la fionda. E quanto alle sentinelle, doveva essere riuscito a non farsi vedere, oppure dovevano essersi messi d'accordo. «Per fuggire, bisogna che ti lasci calare lungo le mura con delle corde. Mi vengono i brividi a dirtelo. Sono 2 mesi che ci sto pensando, ma l'orizzonte ufficiale sta diventando ogni giorno più nero e c'è da aspettarsi il peggio. A proposito, prendi la lampada e facci dei segnali per farci capire che hai ricevuto questa lettera tanto compromettente». Fabrizio fece i segnali, aspettò la risposta e poi tornò alla lettera. «Bisogna che per un mese ti eserciti nella tua stanza a salire e a scendere su una corda lungo la quale siano stati fatti dei nodi. Poi, un giorno di festa, i soldati della guarnigione avranno in regalo un bel po' di vino e tu dovrai tentare la grande impresa. Ti farò avere 3 corde fatte di seta e di canapa, non più grosse di una penna d'oca. Sto passando la vita a studiare com'è fatto il muraglione dal lato est, cioè dalla parte di Ferrara. C'è un contrafforte che forma una specie di piano inclinato. L'hanno costruito per riparare una spaccatura provocata da un terremoto. È alto al massimo 28 piedi e quella è la parte meno sorvegliata. La cosa più difficile è farti avere le corde. Sono 15 giorni che ci penso. Quanto a quell'assurdità, non voglio scappare, che tra l'altro è la prima cosa poco spiritosa che tu abbia detto in vita tua, non voglio neanche parlarne. Tutto molto bello, tutto ben congegnato, pensò Fabrizio, e gli devo essere molto riconoscente a Gina e a Mosca, ma io non scappo, anche se forse loro penseranno che ho avuto paura. Dovrei essere pazzo a scappare da un posto dove sono felice per andare a buttarmi in un esilio spaventoso. No, sarebbe come perdere tutto, mi sentirei soffocare. Mettiamo che vada a Firenze. Che cosa ci sto a fare? Dopo un mese finirei per tornare qui travestito a gironzolare davanti alla porta della cittadella a cercare di farmi vedere almeno per un attimo da lei. Il giorno dopo capitò qualcosa che lo fece spaventare. Se ne stava alla finestra verso le 11 a guardare quel magnifico paesaggio aspettando Clelia, quando Grillo si precipitò dentro con il fiato grosso. «Presto, monsignore, presto! Buttatevi sul letto! Fate finta di star male! Stanno arrivando 3 magistrati per interrogarvi! State attento che cercheranno di farvi su! Pensateci bene prima di rispondere!» E intanto Grillo aveva spinto Fabrizio sul letto, gli aveva buttato addosso un paio di mantelli. «Mi raccomando, dite che state molto male e parlate poco. Fategli ripetere le domande, così avrete tempo di pensare». I 3 magistrati entrarono. 3 avanzi di galera, altro che magistrati, pensò Fabrizio guardando quelle facce torve. Portavano lunghe toghe nere. Lo salutarono con aria molto austera. Poi, senza dire una parola, si sedettero sulle 3 sedie che c'erano nella stanza. «Monsignor Fabrizio del Dongo», disse poi il più anziano, «siamo molto spiacenti di dover compiere una missione estremamente penosa. Siamo qui per annunciarvi il decesso di Sua Eccellenza il signor Marchese del Dongo, secondo Gran Maggiordomo Maggiore del Regno Lombardo-Veneto, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di...» E mentre quello andava avanti con l'elenco dei titoli, Fabrizio scoppiò a piangere. Poi il magistrato continuò. «La signora Marchesa del Dongo vi ha scritto una lettera per comunicarvi questa triste notizia. Ma poiché la signora Marchesa, invece di limitarsi ai fatti, si è anche lasciata andare a una serie di osservazioni del tutto sconvenienti, con una sua ordinanza la Corte di Giustizia ha ieri deliberato che la lettera vi sia comunicata soltanto per estratti, e sono questi estratti che il signor Cancelliere Bona si appresta ora a leggervi». Finita la lettura, il magistrato andò vicino a Fabrizio e gli fece seguire sulla lettera i brani riportati sulla copia in possesso del cancelliere. Fabrizio riuscì a leggere le parole «ingiusto arresto», «crudele condanna per un delitto che non esiste» e capì perché fossero venuti da lui. D'altra parte, li disprezzava troppo quei magistrati venduti. Si limitò a dirgli «Sto male, signori. Mi sento una gran debolezza. Dovete scusarmi, ma non posso alzarmi». Poi, quando quelli furono usciti, ricominciò a piangere e pensava «Forse sono un ipocrita. Mi sembrava di non volergli bene». Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.